Ragionate con calma. 30 gradi è più vicino al nord puro rispetto a 45 gradi nord-est. Quindi di quanti gradi dovete correggere la rotta e in che direzione?